sus mañas. Extraña araña, despojarte de tu gente, tradiciones por pensar diferente. Sandinero se impuso más fuerte al medio del miedo. E buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia, che come al solito dedica questa trasmissione a tutte, tutti e tutti quei compagni che ci hanno accompagnato nella nostra vita, che non sono più materialmente con noi, ma che lo sono sicuramente molto ancora nel cuore e nella mente. E soprattutto a Giorgiana Masi, di cui ieri, ma non solo ieri, la ricordiamo sempre, che è stata ricordata dai compagni proprio sul ponte che noi abbiamo chiamato e continuiamo a chiamare Ponte Garibaldi, ex Ponte Garibaldi, ma che vogliamo e dobbiamo chiamare Ponte Giorgiana Masi, che veramente è stata 19enne vittima della violenza del regime, che si permetteva di sparare senza motivo, o i suoi motivi ce l'aveva, insomma, no? Indiscriminativamente, in mezzo a una folla che pacificamente, di giovani che pacificamente protestava. Ecco, quindi questa trasmissione è dedicata a tutti loro e particolarmente alla nostra Giorgiana e a tutti coloro che lei a tutto quello che lei rappresenta. E a proposito di cortei di cui stiamo parlando, a proposito di cortei, sabato a Piazza Vittorio c'è stato l'ennesimo corteo bello, nutrito e polposo per dire stop, sempre lo stiamo dicendo da mesi e mesi, al genocidio del popolo palestinese. Il corteo appunto è partito da Piazza Vittorio, poi ha percorso via Principe Eugenio, via Le Manzoni, Giovanni Giolitti, poi è passato per Santa Bibiana, ha attraversato il tunnel e poi è arrivato a Porta San Lorenzo e poi è arrivata sulla Tiburtina, sul piazzale Tiburtino, ha fatto percorso via dei Maruccini e è arrivata a Piazzale Moro alle 8:30 e lì si è conclusa con interventi. Ecco, è stato molto, molto bello essere arrivati tutti in tanti di nuovo ancora una volta lì e soprattutto davanti all'università dove sono ancora molto in atto le proteste, dove ci sono ancora le tende degli studenti all'interno dell'università. E appunto in serata, tanto per concludere questo bel pomeriggio e quindi questa bella serata, molti sono riusciti ad entrare all'interno dell'università e a solidarizzare con gli studenti che stanno dentro. Poi appunto vi leggerò di altre facoltà, di altre nazioni come la Spagna che sono scesi appunto a protestare all'interno dell'università, anche la facoltà di Siena e tante altre che stanno protestando nonostante le orecchie da mercante che ci circondano. Quindi la Sapienza sabato sera era piena, strapiena di ragazzi ed è stato veramente molto molto bello. E mentre nel mondo, a Gaza, sono morti in 5 mesi più bambini che in tutte le guerre nel mondo negli ultimi 4 anni. Pensate che nella striscia di Gaza almeno 576.000 bambini, uomini e donne, sono alla fame, quindi una persona su 4 sono in mezzo alle sofferenze perché molti di loro non riescono a curarsi, perché non si ricevono abbastanza alimenti, perché devono scappare, stanno di nuovo scappando da un posto all'altro. Mentre continuano gli attacchi aerei e il premier israeliano Netanyahu assicura che finirà il lavoro iniziato nella striscia di Gaza, il commissario generale della United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East, quindi il commissario generale dell'UNRWA, che si chiama Philip Lazzarini, ha denunciato appunto che negli ultimi mesi sono stati uccisi più bambini lì che in 4 anni di conflitto mondiale. Questa guerra è una guerra contro i bambini, ha dichiarato, ma insomma non c'era bisogno di sentirlo da lui. È una guerra alla loro infanzia e al loro futuro. E appunto gli ultimi dati delle autorità sanitarie sono sconcertanti. Almeno 12.300 bambini sono morti negli ultimi 4 mesi. Pensate che oltre 30.000 palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre, questi poi sono dati relativi a già 2 mesi fa, quindi insomma immaginate quanti altri ancora. Quindi in media sono state uccise 300 persone al giorno, di cui 10.300 sono bambini, poi migliaia di bambini sono stati mutilati, quindi molti bambini, chi sta senza una gamba, chi senza un braccio, chi neanche c'ha i medicinali per potersi curare, per lenire queste ferite che anche a livello psicologico e non psicologico rimarranno per sempre. E in 36 ospedali, di 36 ospedali 25 sono stati bombardati e più di 400, quasi 400 operatori sanitari, tra medici, infermieri, ausiliari e tanto altro, sono stati uccisi e molti umiliati anche davanti ai pazienti. Ecco, mentre avvengono tutte queste crudeltà, si svolgono gli stati generali della natalità. Quindi pensate, no? E la polizia si permette di caricare il corteo femminista di Roma. Quindi, come al solito, si impedisce il diritto di scelta e di autodeterminazione senza rispetto per le donne e anche persone con utero che hanno scelto temporaneamente o per sempre nella loro vita di non avere figli per mille motivi. Da una parte importanti, perché solo decidono, sono motivi seri e importanti, quindi da una parte non si fa nulla per i bambini che si uccidono, che si mutilano, si affamano, si rendono orfani. Pensate che a Gaza ci sono 18.000 orfani, quindi si tratta di bambini che già vivono, e dall'altra si forzano le donne a procreare. Quindi pensate che falsità, no? Cattiveria, chiamerei stoltezza, ma forse è troppo poco dire stoltezza, no? Questo di impedire l'autodeterminazione di una donna, il suo diritto sacrosanto di scegliere su una cosa più importante, e dall'altro permettere che continuino ad essere uccisi, mutilati e affamati e ridotti alla sofferenza migliaia e migliaia di bambini. C'è una dichiarazione di non una di meno di Milano, che scrive: la ministra Roccella è stata contestata da un gruppo di giovani studenti in occasione degli stati generali della natalità al grido "il corpo è mio, decido io". Il diritto all'aborto è stato faticosamente ottenuto grazie alle lotte delle femministe e purtroppo progressivamente depotenziato a causa dell'ingente presenza degli obiettori nelle strutture sanitarie pubbliche. In molte regioni è praticamente impossibile abortire. Un ulteriore attacco alla legge 194 è arrivato da questo governo, che ha di fatto istituzionalizzato la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori. Aborto legale per non morire, perché sono molte, troppe donne in passato sono morte. La ministra Roccella non è riuscita a fare il suo intervento, gridando allo scandalo, l'ipocrita, e alla censura. La stessa censura che lei ha usato contro non una di meno, quando è stata contestata al Salone del Libro di Torino. Molte attiviste sono state denunciate l'anno scorso e molti studenti sono stati identificati 2 giorni fa. Contestare non è né un reato né censura. Ministra Roccella, continueremo a contestarti finché il tuo governo la smetterà di fare la guerra sui nostri corpi. E questo appunto è il messaggio di non una di meno Milano. Creation, where am I going with no destination? What if the fish came from the sea? Wild, if my lover made me feel free? Wild, if my intake caused revelation? Wild, if the point was reincarnation. Why if my shoes don't match my jacket? Now if it's not working, why don't you smack it? What if your mama said you were fat? If you are lost, find where you're at. E mentre continuiamo ad assistere a tagli ai fondi dei consultori, mentre si aprono le porte ai movimenti anti-abortista e anti-scelta, appunto continuano a chiudersi, a tagliare o a accorpare o a trovare mille scuse per non far funzionare i consultori, che invece quando funzionano sono utili, preziosi, necessari. E quindi proprio per questo motivo l'Assemblea delle Donne delle Libere Soggettività di Via Silveri, e col coordinamento delle Assemblee delle Donne delle Libere Soggettività del Lazio Cattive Ragazze, hanno organizzato un presidio proprio a Piazza di Santa Maria delle Fornaci venerdì 10 maggio alle 16:30. Ma quale consultorio? Hanno scritto su un volantino. Nel municipio tredicesimo da marzo è attivo solo il consultorio di Via Silveri, perché quello di Via Tornabuoni è chiuso per lavori. Il consultorio di Via Silveri ha a disposizione solo 3 stanze e negli ultimi mesi i servizi che riguardano lo spazio giovani e l'accesso alla salute riproduttiva vengono erogati a singhiozzo a causa di mancanza di personale. E secondo il centralino, da giugno non sarà più presente l'unica ginecologa non obiettrice. Non sappiamo quando e se verrà sostituita. E quindi, insomma, siccome la situazione di Via Silveri è veramente infuocata, nel senso che già ci si lamenta per questi, soltanto questi 3 spazi che ci sono, che costringono spesso gli operatori a portare gli utenti da qualche altra parte, magari pure al bar, per poterli ascoltare. Ecco, mentre succede tutto questo, si permettono anche di non sostituire chi va in pensione. Questa veramente è una tattica sottile ma molto efficace per non far funzionare questi servizi che sono preziosissimi, perché poi da quello che sappiamo da chi frequenta questi servizi, quando arrivano, insomma, si trovano molto bene, perché ci sono operatori che ascoltano, che sanno dare indicazioni, che sanno aiutare, e soprattutto andare incontro alle esigenze delle donne e dei ragazzi che spesso si rivolgono a questi consultori. E quindi c'è stato questo bel presidio a Piazza delle Santa Maria delle Fornaci, pieno di persone, con tanti interventi intercalati tra l'altro da molte performance canore e sonore. Soltanto una vostra finzione. Ma le proteste questa settimana non sono finite, perché poi invece giovedì, quindi sto andando a ritroso nella settimana, giovedì c'è stato, come vi avevamo già preannunciato, un incontro assemblea sulle malattie invisibilizzate. Si chiamano malattie invisibili, ma è preferibile chiamarle anche malattie invisibilizzate, perché non viene fatto nulla o gli sforzi sono molto pochi, quelli per cui le istituzioni cercano di prestare ascolto a chi porta queste problematiche. E quindi a Piazza dei Levi, proprio al posto di fare l'assemblea all'interno, come ogni secondo giovedì del mese dalle 3 alle 5, all'interno del consultorio di Via dei Levi, Questa volta abbiamo fatto l'assemblea incontro davanti nella piazza di via De Levi, invitando proprio Martina Carpani, che è una un membro del comitato delle vulvodinie, e quindi c'è stato questo incontro molto interessante intorno a un bel tavolo grande, e si è parlato di questa problematica. Perché? Perché come scritto nella locandina distribuita dall'Assemblea delle Donne delle Libere Soggettività del consultorio di via De Levi 10, ci sono forme di dolore che non vengono riconosciute e che subiscono sempre un altissimo ritardo diagnostico. Si tratta di un dolore cronico che colpisce per la maggior parte le persone con vulva e vagina. Queste malattie sono la vulvodinia, l'endometriosi e la fibromialgia. La cultura dominante controlla e limita la nostra sessualità e la conoscenza del nostro corpo. Considera la ginecologia solo a scopo riproduttivo e ci accusa di problemi psicologici per ogni nostro dolore. La tradizione medica patriarcale ci ha definiti steric e paz, compromettendo il nostro diritto alla salute fisica e psicologica. La medicina, pensata e studiata sul maschile universale, viene usata per curare indifferentemente tutto. Pretendiamo il riconoscimento di queste patologie e la costruzione di nuove tutele per chi ne soffre. Vogliamo distruggere le strutture culturali e sociopolitiche che ci opprimono e che costruiscono e impongono rigide norme sulle nostre vite. Vogliamo tempo per prenderci cura di noi e vogliamo un sistema che si curi di noi. Parliamone insieme. E infatti abbiamo iniziato questo discorso proprio giovedì, almeno noi, perché c'è chi già si sta impegnando su questo e poi vi dirò come. E quindi giovedì c'è stato questo incontro. Martina Carpani, che è appunto venuta nel nostro incontro, ha iniziato a dire che appunto quando la scriviamo sui nostri personal computer la parola vulvodinia viene sottolineata come un errore in rosso, ed è tutto dire. Ma ultimamente se ne sta parlando molto, e per fortuna. La vulvodinia è uno di quegli argomenti troppo a lungo trattati come tabù o invisibilizzati del tutto, ritenuti inesistenti. Ma con la nuova proposta di legge nazionale per il riconoscimento della malattia dello scorso novembre, portata avanti dal Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, si sta iniziando a riconoscere finalmente l'importanza del riconoscimento di tale patologia. Abbiamo appunto parlato con Martina Carpani, attivista di Non Una di Meno di Torino, conosciuta nella diretta sull'aborto con Intersezionale mesi fa, in quanto componente comitato che ha portato avanti la proposta e che soffre purtroppo anche lei di tale patologia. E quindi lei ha spiegato di che cosa si sta parlando nello specifico e ci ha raccontato di che cos'è la vulvodinia, che è una patologia cronica molto diffusa che colpisce ben una donna o persona con vulva ogni 7, io non l'avrei detto, pensavo molto di meno, e invece ogni 7 donne soffre di questa patologia cronica, nonostante sia ancora misconosciuta dal personale medico e dalla società. Viene definita in letteratura come dolore vulvare che persiste per più di 3 mesi e si presenta con dolore, bruciore, prurito, peso pelvico, disturbi urinari, taglietti o sensazioni di abrasioni vulvari, fino anche a sensazione di spilli, impossibilità a sedersi o sensazione di scosse elettriche. quindi tutti sintomi che poi variano da persona a persona. E il problema è che non esiste, questo riguarda un po' tutte le malattie invisibilizzate come la fibromialgia, come l'endometriosi, il problema è che non esiste una figura che ci prende globalmente in carico, ci raccontava Marina Carpani, e fa da raccordo con le tante specializzazioni coinvolte, che sarebbe l'obiettivo più importante su cui loro cercano di puntare, di richiedere allo Stato. In generale, ci raccontava che in Italia chi lavora in ambito sanitario è disabituato a considerare il corpo a 360 gradi e quindi ogni specialista tende a tenere a mente solo il proprio piccolo organo di competenza. Dunque, alla fine abbiamo noi pazienti tutto il carico mentale di queste cure frammentate e siamo costrette a leggere riviste, diceva la Carpani, articoli e dibattiti medici pur di capirci qualcosa di più o di dare un senso alle cure talvolta non pienamente compatibili. Tra l'altro queste cure sono molto costose perché chiaramente ci si deve recare da vari specialisti, neurologi, ginecologi, reumatologi e tanto altro, e che costano e che poi prescrivono farmaci che sono anche molto costosi, quindi insomma farmaci che vanno dagli 80 ai 120 euro e molto di più, per cui insomma in un mese si vanno a spendere veramente tanti soldi per questa malattia in cui appunto ancora non c'è un referente, un gruppo, no, che possa creare una unit. Martedì sono andata a un'assemblea sulla breast unit del Policlinico Umberto I, qui dove appunto non è per saltare di palo in frasca, però perché mi sembra veramente importante, in cui erano presenti dei medici, degli operatori, e c'erano anche donne interessate e c'erano anche le donne con quelle problematiche che esprimevano sia le difficoltà sia le situazioni che invece in cui loro si sono trovate bene, quindi è stato un bel confronto. Ma di quello che è emerso in particolare, che a me ha colpito molto, che mi è piaciuto, è che almeno la realizzazione di una unità operativa che si interessi di tutto quello che riguarda una certa problematica è fondamentale, perché così la donna o la persona in genere non debbano andare a disperarsi di palo in frasca, di medico in medico, disperatamente da sola, perdendo tempo con un sacco di angosce. Quindi si potrebbe pensare, e loro della commissione, queste persone della commissione della vulvodinia delle malattie invisibilizzate lo stanno già facendo, ad una unità operativa che unisca appunto tutte queste, questi ambiti scientifici, che possano accogliere chi porta questi problemi e non mandarla appunto a destra e a manca. E appunto ci raccontava Martina Carpani che è stata proposta una legge a metà novembre per il riconoscimento di questa malattia. E come è strutturata questa proposta? Ecco, la proposta di legge è stata scritta dal Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo attraverso un percorso partecipato di call online che ha coinvolto tantissime pazienti, il personale medico specializzato e le associazioni nazionali che si occupano di vulvodinia e che appunto abbiamo citato prima. La proposta di legge presentata risponde quindi alle necessità di cura, perché appunto siamo esauste di essere invisibili. In particolare la proposta di legge prevede il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo nei livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, come malattie croniche invalidanti, Ciò avviene attraverso l'individuazione di un presidio pubblico specializzato in ogni regione, la copertura delle spese sanitarie da parte del sistema sanitario nazionale, la costruzione di un registro nazionale per la raccolta dati su queste due patologie, l'accesso agevolato al telelavoro e allo smart working per lavoratrici e lavoratori e un incremento dei permessi per la malattia in base alla gravità della patologia, perché col fatto che non è riconosciuta, chiaramente non è, anche il medico non può scrivere nulla in particolare. Come fai ad essere giustificato al lavoro, no, se si tratta di una malattia ancora non ufficializzata? Quindi la richiesta è anche questa. Quindi si vuole istituire anche una giornata nazionale della vulvodinia al fine di promuovere attivamente attività di prevenzione primaria nelle scuole, campagne di sensibilizzazione e informazione. Infine, nella legge è inserita l'apertura di un fondo per il sostegno alla ricerca e per la formazione medica obbligatoria, anche perché appunto non c'è formazione, molti medici, ostetriche, insomma chi ci lavora non è ben a conoscenza. Questo fondo era stato richiesto anche in sede di legge di bilancio nel 21 da ben 5 emendamenti di partiti diversi. E comunque, nonostante questo, non si fa cenno alla vulvodinia nella manovra effettivamente varata. È evidente che la strada è ancora lunga e, ci diceva la Carpani, non possiamo fare altro che continuare a lottare. È quello di lottare sempre, ovviamente, e abbiamo chiesto per quale motivo a livello politico questa lotta sia molto importante per le donne, e lei ha detto appunto che la lotta per il riconoscimento della vulvodinia è una battaglia profondamente femminista. Chi soffre di vulvodinia vive stereotipi di genere secolari, gli stessi che ci definivano isteriche nell'Ottocento e che oggi impediscono alla ricerca medica di occuparsi dei corpi diversi dalla norma maschile cis. Il personale medico è profondamente patriarcale ed è l'ora di rivoltarlo. Com'è possibile che una malattia che colpisce una persona con vulva su 7 non sia conosciuta in tutti gli ospedali? Accade lo stesso per l'endometriosi e la fibromialgia. Non a caso tutte malattie che colpiscono principalmente persone assegnate femmine alla nascita, quindi donne, uomini trans, persone non binarie e con vulva e vagina. E inoltre è ora di rivoltare anche la società, che ci fa sentire così profondamente fuori posto per il fatto di essere fuori dalle norme imposte per il nostro genere. La vulvodinia, infatti, porta con sé la battaglia contro le norme e gli stereotipi di genere, per il riconoscimento delle disabilità non visibili e della disabilità dinamica, per la salute sessuale e la liberazione della sessualità, per la necessità di maggiore autoconsapevolezza dei corpi con vulva. Appunto, lo stigma sociale, dicevamo, è ancora molto presente, non aiuta ad accettare questa problematica. E poi appunto su questo argomento, insomma, abbiamo molto approfondito e ci siamo confrontati tutti quanti, ed è stato veramente un incontro utile e prezioso, e questo grazie appunto all'iniziativa dell'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività del consultorio di Via De Levi. Wow. E intanto, mentre vi parlo, sono arrivati, continuano ad arrivare, come vi dicevo prima, nuovi messaggi sulle aperture, sulle battaglie che si stanno svolgendo all'interno di altre università. Un'altra è quella sulle università spagnole, che annunciano l'interruzione dei rapporti con Israele. Scrive l'Indipendente: la Confederazione delle Università Spagnole, CRUE, ha annunciato che gli Atenei nazionali interromperanno ogni rapporto con le istituzioni accademiche israeliane. La decisione coinvolge 76 università spagnole, pubbliche e private, che romperanno i rapporti di cooperazione universitaria con gli stessi Atenei israeliani, a meno che le autorità degli stessi non esprimano un fermo impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale umanitario. La decisione della CRUE è giunta al culmine dei campeggi di protesta per Gaza, organizzati dagli studenti spagnoli, sulla scia di quanto avviene anche in Italia e in molti altri paesi. Ma se in Italia gli studenti trovano l'indisponibilità all'ascolto della politica e i manganelli della polizia, in Spagna il clima è molto diverso, con il governo nazionale che supporta le proteste e ha annunciato che nelle prossime settimane approverà il riconoscimento dello Stato di Palestina. Annunciando la decisione, la Confederazione delle Università Spagnole ha anche promesso di intensificare la cooperazione con gli istituti di ricerca e di istruzione superiore palestinesi, così come di espandere la cooperazione, i programmi di volontariato e di aiuto ai rifugiati palestinesi. CRUE, che rappresenta 76 istituti spagnoli, tra università pubbliche 50 e private 26, ha dichiarato: sosteniamo i sentimenti dei nostri campus e la richiesta che si sta diffondendo da loro affinché vengano adottate misure per fermare l'escalation di violenza che si sta verificando. Il consiglio di amministrazione del CRUE ha chiesto che lo Stato di Israele rispetti il diritto internazionale e consenta l'ingresso a Gaza di tutti gli aiuti umanitari che possono essere forniti per coprire l'emergenza della sua popolazione civile e che le misure corrispondenti siano articolate dagli organismi internazionali da intraprendere il prima possibile la ricostruzione e il recupero del territorio palestinese. E l'annuncio arriva, continua sempre l'Indipendente, un giorno dopo che l'Università di Barcellona ha votato per tagliare tutti i legami con Israele, mossa che l'Università dei Paesi Baschi aveva già compiuto alla fine di aprile, al momento dell'inizio delle proteste studentesche in Spagna. Mercoledì il Senato dell'Università di Barcellona ha approvato una mozione di sostegno per la Palestina, presentata da un gruppo di 45 membri della facoltà, con 59 voti a favore, 23 contrari e 37 astensioni. È stata approvata una dichiarazione in cui si afferma che Israele pratica il genocidio della popolazione palestinese e che da 75 anni applica una politica di occupazione apartheid sul territorio e sulla popolazione palestinese, mentre viola sistematicamente il diritto internazionale. In questa dichiarazione, la facoltà dell'Università di Barcellona ha accettato di sospendere tutte le relazioni istituzionali o accademiche con le università, gli istituti di ricerca, le aziende e le altre istituzioni israeliane, come meccanismo di pressione sullo Stato di Israele, nonché di chiedere che il governo centrale e la Generalitat, ovvero l'insieme delle istituzioni regionali, rompano i rapporti con il governo israeliano. E questo è un articolo di Michele Manfrin sull'Indipendente. I'm watching myself like an old movie on color. Whispering Portuguese, it's just as mysterious and the stubble on his face, it hurt me when we fell onto each other's faces. Dawn retraces heartache patterns across gray oceans. One could cast a smooth, worn lover's stone. Worn smooth from days of fertile deliberation. E comunque non si fermano le mobilitazioni, no? Come leggevamo, per la Spagna, per Gaza e Rafah in tutto il mondo. In Italia proseguono le acampade studentesche nelle università, come dicevamo, in solidarietà con la popolazione palestinese e per chiedere lo stop al genocidio perpetrato dal governo israeliano. Quindi dopo la statale e il Politecnico di Milano e anche a Siena, Venezia e Torino, oltre che a Roma, e a tante altre università sono iniziate e continuano anzi le proteste per Gaza. Worn smooth from days of fertile deliberation. E sempre a proposito delle proteste che si fanno per impedire questo, per fermare, purtroppo non siamo riusciti a impedirlo, almeno per fermare questo genocidio a Gaza, tra queste si è costituito un comitato di operatori per Gaza, operatori sanitari per Gaza, che si prodiga nel fare quello che è possibile, nel soccorrere per quello che si può fare, per scendere in piazza e oltre alle tante iniziative possibili ha inoltrato nei vari ordini che in cui si trovano, ha inoltrato delle richieste di intervento, di fare delle dichiarazioni, perché tra l'altro questo movimento è nato anche perché, ricordiamolo, lo abbiamo già detto ma non va mai dimenticato, sono stati uccisi 400 operatori sanitari a Gaza, tra medici, infermieri, tecnici vari e personale, e 400 uccisi e molti incarcerati e umiliati, e quindi è pure doveroso da parte degli ordini sanitari, delle professioni sanitarie che intervengono. Tra le varie lettere inviate per richiedere un intervento, almeno delle dichiarazioni ai vari ordini, c'è stata anche una richiesta all'ordine degli psicologi e alcuni giovani psicologi hanno attaccato il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, chiedendo appunto: riconoscete il genocidio in Palestina e date aiuti come fate per l'Ucraina. E quindi questo è successo a Torino, in cui si alza all'interno di questo Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, si alza una psicologa e dice: guardate che noi il 26 aprile abbiamo inviato una PEC al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, il CNOP, e a tutti gli ordini regionali per richiedere l'erogazione per la popolazione palestinese e italo-palestinese qui in Italia degli stessi servizi che sono stati erogati in seguito alla guerra in Ucraina. Abbiamo fatto anche una raccolta firme che ad oggi conta più di 3.600 adesioni e abbiamo chiesto al CNOP, quindi al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Psicologi, e agli ordini regionali il riconoscimento del genocidio a Gaza. E quindi con queste parole una giovane psicologa e psicoterapeuta in formazione che fa parte del progetto Psicologia per la Palestina, alzando la mano dal pubblico, si è rivolta al presidente del Consiglio Nazionale degli Organi degli Psicologi, David Lazzari, mentre era in corso un incontro con Fedez sul tema della salute mentale nell'ambito del Salone del Libro di Torino. E quindi sappiamo che la psicologia è una questione collettiva, continua la psicologa. Anche il nostro codice deontologico dice che abbiamo una responsabilità verso la società e la società non è fatta solo di persone italiane di origine, ha continuato. E per noi è importantissimo che questa responsabilità sia attuata anche nei confronti di quello che sta accadendo nel mondo. Nell'incontro di oggi parliamo del malessere adolescenziale e di quello dei giovani adulti in Italia. E questo malessere lo vediamo molto spesso nelle piazze, quando questi giovani cercano di farsi sentire davanti a una generazione adulta che non li ascolta. Secondo noi è importante un'assunzione di responsabilità verso i ragazzi e le ragazze, nonché una presa di posizione verso le dinamiche sociali e politiche che stanno accadendo nel mondo, perché, ha ribadito la psicologa, in questo momento stiamo assistendo a un genocidio. E allora, cascando un po' dal pero, come si dice, Lazzari, presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, dice: oh, ma non so come mai, ma non conoscevo questa petizione, noi siamo sempre stati schierati a favore dell'Ucraina anche quando ci sono stati gli immigrati ucraini in Italia, però il tema delle guerre e delle crisi, come anche quello della crisi ambientale, sono nel cuore e nelle corde della nostra professione, che deve aiutare a prescindere dai conflitti, prescindere dai confini e dalle posizioni ideologiche. E quindi mi dispiace, non conoscevo questa petizione, ma con questo e con altri input di questo tipo ci confronteremo e se possiamo fare qualcosa la faremo, sicuramente dal punto di vista culturale e, se sarà possibile, anche da quello materiale, risponde appunto il presidente. E poi, incalzato da altri giovani psicologi presenti nel pubblico che continuavano a chiedere perché il Consiglio Nazionale dell'Ordine, dopo 7 mesi dal genocidio, non si sia mai espresso, mentre per l'Ucraina l'ha fatto subito, Lazzari ha ribadito più volte che non c'è una posizione pregiudiziale di carattere ideologica e politica. Non so se altri ordini professionali hanno fatto delle cose, ha continuato il presidente, sento che oggi che il nostro ordine è investito di un ruolo, eccetera eccetera. E quindi appunto queste sono state le promesse, vediamo che succede e se appunto un ordine così delicato, insomma, che dovrebbe essere molto interessato, tutti noi lo siamo ovviamente in qualsiasi ambito, è molto interessato a queste problematiche. Tra l'altro, immaginate che a livello psicologico che cosa sta succedendo lì tra gli adulti, ma soprattutto tra i bambini, come si sentono e come si sentiranno tutti migliaia di orfani che ci sono stati, tutti i bambini che adesso hanno una gamba sola, un braccio solo, che vivono la loro vita con delle gravi mutilazioni. Ecco, questa è una cosa a cui quest'ordine, e come insieme a tutti gli altri, deve essere sensibilizzato a prendere almeno delle posizioni. ci stiamo rendendo conto che vi stiamo dando un sacco di indicazioni su piazze di protesta, su piazze belle, piazze che protestano, piazze che riflettono, che dibattono, però evidentemente questo è lo specchio di tempi in cui si chiedono e si esigono delle cose che non vanno tolte, anzi che vanno migliorate. Quindi tra le varie date, visto che appunto stiamo facendo questo, abbiamo iniziato così, vi ricordo che il 14 alle 19 a Escadelè c'è l'assemblea cittadina di Non Una di Meno, che il 17 c'è la giornata mondiale contro l'omo lesbo transfobia e poi che c'è alle con Rita Segato c'è la pedagogia della crudeltà sempre alle 18:30 a Escadelè. E poi il 18 c'è il corteo per l'autodeterminazione trans alle 14:30 a Piazzale Ostiense. E poi i nostri appuntamenti, gli appuntamenti dell'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività di Roma e del Lazio. Domani 14 maggio, sempre tra le 15 e le 17 e sempre come ogni secondo martedì del mese, c'è l'assemblea via Resede 1 a Centociel, domani martedì 14 via Resede. Dopodomani 15 maggio, sempre dalle 15 alle 17, come ogni terzo mercoledì del mese, l'assemblea è a Piazza dei Condottieri 34 al Pigneto. Giovedì 16 maggio, sempre in questa settimana, tra le 15 e le 17, come ogni terzo giovedì del mese, c'è l'Assemblea delle Donne delle Libere Soggettività a Via Spencer 282 e si trova al Prenestino. Poi, ma questa ve la ricorderemo lunedì prossimo, ve la anticipiamo perché altrimenti meglio ricordarla, anticiparla. Martedì 21 maggio, sempre dalle 15 alle 17, a Via dei Frentani, quindi qui a San Lorenzo, a Via dei Frentani 6, ci sarà sempre un'altra assemblea qui a San Lorenzo. E poi non è da dimenticare questa data importante. Perché come oggi entrava in vigore finalmente la legge Basaglia, vi leggo uno scritto. Visto da vicino, nessuno è normale.